Un'iniziativa che in realtà è iniziata a fine settembre con la prima affissione delle buste paga da fame, chiamiamole così. Sono buste paga di lavoratori a cui viene applicato poi il contratto nazionale, insomma, di quelle che vengono considerate le maggiori organizzazioni sindacali. Dunque non si tratta di contratti nazionali pirata, sottoscritte, che ne so, da organizzazioni sindacali non conosciute. Si tratta appunto di contratti nazionali sottoscritti da CGIL e CISL, UIL, che però di fatto comportano dei salari da fame. Sono contratti nazionali che vengono applicati in sostituzione anche di altri contratti nazionali, sempre sottoscritti da CGIL e CISL UIL, che sono insomma più dignitosi e vengono sostanzialmente utilizzati soprattutto negli appalti e nei subappalti. Dunque, ad esempio, un'azienda metalmeccaniche, invece di applicare industria metalmeccanica o logistica, viene applicato un multiservizi piuttosto che un altro, ecco, no? Oppure le aziende alimentari, piuttosto che applicare industria alimentare, che potrebbero farlo benissimo, applicano ovviamente questi contratti nazionali che hanno buste paga, insomma, hanno dei salari ridicoli. Dunque si crea una sorta di dumping contrattuale tra contratti sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali. Per cui abbiamo affisso le prime buste paga, ci sono per i lavoratori della portineria della regione a cui viene applicato il contratto Staffi, lavoratori buste paghi delle cooperative sociali a cui viene applicato Coop Sociale, lavoratori a cui viene applicato Multiservizi. I salari sono sostanzialmente tutti inferiori agli 8 euro, vengono applicati dei contratti che magari hanno anche quelle 9 euro, ma sono delle paghe a base un pochino più alte, ma solamente di facciata, perché in realtà il RAL, che sarebbe il reddito annuale, è su un numero di mensilità inferiore, perché di fatto i mesi in cui le scuole per esempio sono chiuse non li vengono retribuiti, e tutti gli altri sono salari inferiori agli 8 euro, ai 7 euro, ai 6 euro. Abbiamo anche salari inferiori, diciamo, ai 6 euro, di 5 euro, che è il caso ad esempio dei lavoratori della sicurezza delle fiere. Dunque si parla praticamente di 4 euro netti all'ora, ecco. Per questo che avete sintetizzato anche in uno slogan molto efficace: a fine stipendio avanza troppo mese. Una Esatto, cosa che mi ha esatto. colpito è che non si tratta solo di contratti che vengono praticati nel privato, ma anche nel pubblico attraverso gli appalti. Infatti tutte le lavoratrici delle cooperative sociali, che tra l'altro sono anche condannate a un part-time involontario, nel senso che il part-time dovrebbe essere una scelta, in realtà per loro il full-time è un sogno irrealizzabile, diciamo così, nel senso che praticamente non viene data alcuna possibilità di trasformazione in full-time. Viene applicato anche negli appalti pubblici, ci sarebbero anche gli appalti del pacchinaggio della regione Emilia-Romagna, delle portinerie dell'Emilia-Romagna. Ci sono vari appalti, ma anche dell'industria privata, ovviamente, però di un'industria abbastanza a notte, come la Marcegaglia, ad esempio. Il contratto della multiservizio, ad esempio, viene utilizzato anche negli appalti in Ducati e in motori Minarelli, al posto invece di trasporti logistiche merci, ad esempio, al pari di lavoratori che con le stesse mansioni magari gli viene applicato un contratto più dignitoso come l'industria metalmeccanica o la logistica, ecco. Oltre al presidio, quest'oggi avete chiesto un incontro in regione, che proposte avanzerete? Il problema è la busta paga da fame, ma soprattutto ovviamente il fatto che i salari non siano adeguati ai reali costi di vita. Il problema è che non c'è un salario minimo, ma il problema anche che il salario minimo ovviamente dovrebbe anche essere adeguato a quelli che sono i costi reali di vita. E dunque alla Regione intanto chiederemo di prendere una posizione anche dal punto di vista politico, ecco, contro questi contratti. In realtà il problema di questi contratti è che spingono i salari poi verso il basso. Non è, insomma, un esempio per tutti, anche per quelli che sono sostanzialmente i salari più dignitosi. Dunque quello che chiediamo alla Regione è sostanzialmente un'espressione anche politica, che si esprime politicamente contro l'applicazione di questi contratti, per l'applicazione invece di contratti, insomma, più dignitosi. Questa iniziativa fa parte di un percorso verso lo sciopero generale del 2 dicembre. Esatto, verso lo sciopero del generale del 2 dicembre, perché in realtà lo sciopero è contro la guerra, soprattutto contro le conseguenze dell'economia di guerra, che è ovviamente il carovita, per un salario dignitoso e per un salario adeguato sostanzialmente ai costi di vita. per il welfare, per insomma e per il sociale. In realtà il problema è anche che a causa appunto della guerra, dell'economia di guerra soprattutto, sicuramente non lo vediamo adesso, ma probabilmente si inizia a far vedere in qualche azienda metalmeccanica come la Marsigallia, che ha iniziato la cassa integrazione, ma ne abbiamo anche tante altre che iniziano a pensare a iniziare la cassa integrazione, per cui secondo noi ad oggi ancora non si vedono gli effetti e le conseguenze, ma sicuramente si vedranno chiaramente più avanti, sicuramente per inizio anno, ecco. Ed è chiaro che aumenterà la disoccupazione e aumenterà ancora di più la difficoltà dei lavoratori ad arrivare a fine mese, soprattutto se continuano ad esistere dei salari del genere e non si riesce ovviamente a trovare una soluzione verso sostanzialmente almeno un salario minimo, ecco.